Per tutto questo tempo, la lettera che Mai Pia aveva lasciato ai piedi di Anna rimase nella sua busta di velluto rosso nel baule di pelle. Nei pettegolezzi che udiva per caso per le strade e nelle case dell'interno non c'era alcun riferimento alla prigionia della principessa di Chiang Mai. Anna cominciava a chiedersi se Mai Pia non fosse stata male informata, se la principessa non fosse stata invece rinchiusa nel palazzo del secondo re, se era ancora viva. Anna aveva paura di dire troppo alle amiche dell'harem. Avrebbe potuto essere pericoloso per lei e per la principessa se si fosse creato un eccessivo interesse. Osò solo chiedere a Lady Songclin se aveva sentito qualcosa della principessa su Natda e lei rispose di no, in fretta e incerta, come quando non voleva discutere di qualche argomento. Il principe di Chiang Mai era ancora a Bangkok. La sua scorta era ormeggiata dall'altra parte del fiume a Wat Arun, il tempio dell'alba, dove stavano sempre. Poi, un giorno, mentre Anna lavorava in una stanza vicino alla camera da letto reale, udì Mae Yin Tahan che andava dal re. Anna stava lottando con una massa di documenti scritti dal re che la lasciavano perplessa, dei quali le era stato ordinato di curare la pubblicazione sul recorder di Bangkok. Per tutta la mattinata Sua Maestà era stato del suo umore migliore. Il manoscritto su cui Anna stava lavorando era una risposta alla teoria della depravazione originale del dottor Bradley. I due gentiluomini, intrattabili e avanti negli anni, litigavano dalle colonne del giornale. Attraverso le pareti sottili, Anna udì il capo delle Amazzoni strisciare nella stanza e, senza avvicinarsi troppo alla sacra persona del re, annunciare con voce chiaramente udibile che la prigioniera, la principessa Sunath da Wismita, era molto malata. «Allora permettete alla principessa di andare a prendere aria in giardino», replicò lui allegramente, «e trasferitela in una cella migliore e ordinate al medico di visitarla». L'Amazzone strisciò all'indietro e iniziò a scendere le scale. Senza rumore, Anna si alzò dal tavolo e in punta di piedi la seguì, badando di non perderla di vista, ma cercando di non farsi notare. Mae Ying Tahan camminava rapidamente per le strade dell'harem, fermandosi soltanto per inginocchiarsi quando si avvicinava e passava una grandama. L'inglese vide che si dirigeva alla prigione centrale, dove molto tempo prima era andata, per la prima volta, a trovare Lady Songclin. L'Amazzone scomparve attraverso il cancello. Anna non cercò di entrare, ma rimase in attesa a una certa distanza dall'entrata. Una folla oziosa di schiave e di ragazze ciondolava nei paraggi. Quando si accorsero del movimento, la strada ben presto si riempì di spettatori. Anna rimase ad osservare da lontano finché un drappello di Amazzoni uscì dalla prigione marciando in fila. Al centro del gruppo c'era una laotiana, ovviamente la principessa, seguita da due connazionali. Non sembrava accorgersi dell'eccitazione che la sua apparizione aveva provocato, ma camminava compostamente come fosse sola. Sembrava depressa e malata, chiusa nella solitudine del suo dolore. La folla si tenne a distanza e Anna con loro. Quando il corteo raggiunse il giardino più vicino, la principessa intimò con un gesto orgoglioso che non poteva proseguire. Si sedette sul bordo di una roccia artificiale vicino a uno stagno in cui nuotavano dei pesciolini rossi. I suoi bei lineamenti erano irrigiditi e il suo viso rassegnato dalla tristezza. Un mormorio di compassione si alzò dalla folla di donne e di ragazze che guardavano con reverenza il viso della principessa, di cui tutte sentivano parlare da anni. Persino le Amazzoni esprimevano una cauta simpatia. Per la prima volta, la principessa sembrò rendersi conto che era circondata da gente. Anna poté vedere che alzava gli occhi scuri verso la folla e poi li abbassava di nuovo. Dopo un'ora il corteo si formò e la folla prese ad agitarsi. Si scambiavano occhiate e sussurri pieni di compassione. Qualche vecchia schiava, mezzo paralizzata, aveva alzato le mani per pregare per la sfortunata principessa. Mentre le Amazzoni si allontanavano, le schiave rimasero indietro finché videro le porte della prigione aprirsi e chiudersi ancora una volta. A quel punto corsero verso casa con la notizia. A casa, per il pranzo, Anna non riusciva a togliersi dalla mente l'immagine della principessa, l'assoluta solitudine che trapelava dai suoi gesti. Adesso sapeva che era viva e dove si trovava. Questo riapriva il mistero della lettera di velluto rosso. Se il messaggio fosse stato orale, Anna sarebbe stata sicura che avrebbe potuto consegnarlo, ma un messaggio scritto poteva contenere qualunque cosa. Quando Quando tornò a scuola, aveva la lettera infilata in tasca. Aveva deciso di passare da Lady Tiang e forse consigliarsi con lei, ma come avrebbe potuto affrontare l'argomento con la prima moglie davanti alle donne che si occupavano di lei in ogni momento? Anna si diresse verso la casa con la facciata in stucco bianco e il bel giardino, senza avere risolto il problema di come parlare in privato con Lady Tiang. Erano state complici in tanti piccoli intrighi, ma mai in qualcosa di così vasta portata o in cui la persona coinvolta fosse così importante. Lady Tiang poteva non desiderare di interferire tra il re e la principessa. Non era difficile, comunque, trovare una scusa per una visita e poi affidarsi all'intuizione. Lady Tiang aspettava il decimo figlio e Anna si fermava spesso a vedere come stava. Accolse Anna con il solito sorriso luminoso, mise a terra uno dei figli più piccoli, il principe Chai Anuchit, che abbracciò Anna con foga, sistemandosi come al solito in braccio. Quando il piccolo aveva 2 anni, aveva imparato alcune strofe di Nina Nanna inglesi e lui salutava sempre Anna con «Mem, mem, come stai? Mem, fa un inchino, fa un inchino!» e inclinava la testina, strizzandole l'occhio con infinita delizia della madre e delle cameriere che scoppiavano a ridere. Nel bel mezzo della risata venne annunciato il medico. Lady Tiang si ritirò immediatamente in una delle stanze interne portando in braccio Chai e facendo cenno ad Anna di seguirla. Poi diede Chai a Anna e si stese per farsi massaggiare. Ecco l'occasione in cui Anna aveva sperato. Ma aspettò un attimo per assicurarsi che ci si potesse fidare della dottoressa. Le donne rimasero in silenzio per parecchi minuti. Lady Tiang sospirò e si lamentò un po' mentre veniva massaggiata prima da una parte e poi dall'altra. Anna aspettò, poi all'improvviso si rese conto che anche le donne stavano aspettando. Dalle occhiate che si scambiarono vide che la dottoressa aveva qualcosa da dire a Lady Tiang e che quest'ultima non le aveva fatto segno di procedere. Anche lei sembrava in attesa, senza dubbio, della fine della visita di Anna. L'inglese fece finta di non accorgersi, faceva saltare Chai sulle ginocchia e gli cantava una canzoncina. Dopo un po', vedendo che Anna non accennava ad andarsene, Lady Tiang disse in siamese alla dottoressa: «Non si preoccupi, parli, è tutto a posto, non c'è da temere». Naturalmente Anna capì perfettamente. La dottoressa interruppe le sue manipolazioni e, dopo aver ispezionato con lo sguardo la stanza, scosse la testa. «Non credo che vivrà molto a lungo». «Oh, che il grande Buddha in cielo ci aiuti!» pianse a bassa voce Lady Tiang in preda a una profonda agitazione. «Cosa devo fare? Non si può salvarla!» «Bisogna fare qualcosa in fretta», rispose la dottoressa. «Bene, perché non prepara un foglio e lo consegna a Mai Ying Tahan e insista che non vivrà più di 24 ore a meno che non la tolgano di là e non le permettano di prendere aria ogni giorno? Poveretta, poveretta!» ripeteva Lady Tiang. «Ho un cuore così nobile e adesso morire così. Dobbiamo trovare un modo di aiutarla a continuare a vivere finché le cose non migliorano. Deve esserci qualcosa che possiamo fare». Anna continuava a giocare con Chai come se non avesse interesse alla conversazione. Dopo che la dottoressa si fu chiusa la porta alle spalle, si voltò verso Lady Tiang e parlò a voce bassa ma direttamente. «Stavate parlando della principessa Sunatha Wismita?» La prima moglie sussultò allarmata e guardò Anna come se fosse dotata di poteri sovrannaturali. «Come sai il suo nome? No, non parlavamo di lei». Anna le raccontò in breve della visita di Mai Pia e della lettera di velluto rosso. «Se davvero sta morendo, come dice la dottoressa, di certo non c'è niente di male a consegnarle la lettera». «Non può fargliela avere? Diceva proprio ora che occorre trovare un modo per stimolare il suo interesse per la vita, per aiutarla». Lady Tiang scosse la testa. «Allora lasci che gliela consegni io», disse Anna. Seduta sul divano, Lady Tiang rimase sprofondata nei suoi pensieri. «Noi siamo tutte prigioniere qui, mia cara», disse alla fine, «e dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. Ma se promette di non parlare con nessuno di questa faccenda, e in caso siamo scoperte di prendersi tutta la colpa di qualsiasi cosa si tratti, l'aiuterò». «Naturalmente», rispose Anna. «Sono felice di prometterlo». Lady Tiang guardò Anna tranquillamente. I capelli neri rendevano il suo viso ancora più pallido di quanto non fosse. Era un volto aperto, non grazioso, ma affascinante, con scuri occhi dolci e una bocca decisa e piacevole. «Non deve pensare che sia debole ed egoista, Mem Cha», continuò dopo aver riflettuto un po'. posando la mano su Anna come se implorasse la sua comprensione. Lei è una Farang e lui non ha lo stesso potere su di lei, può andare dove vuole, ma noi dobbiamo stare qui a soffrire per lui qualunque cosa succeda. Anna annuì. Lo so, oh, certo che lo so. Ritorni dopo il tramonto e le dirò se è sicuro consegnare la lettera stasera. Quando fu buio, Anna tornò a casa di Lady Tiang. La prima moglie si affrettò ad andarle incontro prima che potessero vederla. È fatta, Mem Cha, sussurrò con voce esultante. Il rapporto del dottore ha reso le cose più facili. La principessa è stata trasferita in una bella cella che riceve aria da una finestra. Ordinò a due schiave di accompagnare Anna e di dare istruzioni alle amazzoni perché Anna potesse vedere la principessa. Ci voleva coraggio a fare una cosa del genere. Anna si era aspettata che le amazzoni fossero preparate alla sua visita in modo indiretto e che l'avrebbero lasciata entrare, come le volte precedenti, dietro pagamento di una piccola somma. Le schiave si mossero rapidamente e in silenzio per le strade tranquille, con Anna al seguito. Giunte sulla porta della prigione, sussurrarono alcune parole veloci e si dileguarono nella notte. In fretta e senza cerimonie, Anna venne portata a un piccolo appartamento. Le amazzoni la spinsero dentro e chiusero la porta senza parlare. La stanza era fiocamente illuminata da uno stoppino che bruciava in un recipiente di terracotta. C'era una finestra con pesanti sbarre. Le persiane erano aperte e un po' d'aria si agitava. Sotto la finestra era stata posata, sopra trespoli di legno, un'asse rivestita da una stuoia a fiori e un cuscino di seta. Su questa giaceva la figura emaciata della principessa Sunathda. Era vestita come una signora del Laos di alto rango, indossava un pasen di seta scarlatto, ricamato d'oro, che le arrivava ai piedi, e un gilet di seta nero a fiori. Sulle spalle aveva un lungo velo di garza indiana, attorno al collo aveva una pesante catena d'oro e alle dita diversi anelli, ovviamente di grande valore. I capelli erano raccolti sulla nuca in un pesante nodo, legato con una tiara di diamanti a gocce. Secondo Anna non era neppure vagamente bella come la schiava Mai Pia, ma gli occhi tristi esprimevano un orgoglio eroico. Era un viso che non si poteva dimenticare. Ai suoi piedi c'erano altre due brande, su queste sedevano le sue ancelle. Anna si sedette vicino al gruppo. Nessuno parlò. Anna non sapeva come avviare la conversazione. Iniziò in modo convenzionale, informandosi sulla salute della principessa. Sto bene, rispose la principessa con indifferenza. Prego, perché è venuta? Ho un importante messaggio personale per lei, rispose Anna. È vero? Chiese la principessa cercando conferma dalle donne anziché da Anna. Lei rispose senza esitazione. Sì, sono venuta da donna a donna perché lei è in difficoltà. Non potevo rifiutare la richiesta di Mai Pia. Come ha detto? Mai Pia! La principessa balzò dal letto, illuminandosi in viso, e gettò le braccia al collo di Anna come se fossero state amiche da anni. Appoggiò una guancia calda su quella di lei e sussurrò: mi dica, ha detto Mai Pia? Anna estrasse dalla tasca la busta di velluto e la mise in mano alla principessa. Sul suo viso comparve una tale gioia, come se un candeliere di cristallo si fosse improvvisamente illuminato nella stanza scura. Il cambiamento dalla disperazione alla gioia la rese enormemente bella. Con gesti nervosi, aprì la busta di velluto e si avvicinò alla lampada per leggere la lettera. Alla luce incerta, sul suo viso pallido, comparve un leggero rossore. Sorrideva quando terminò la lettura e si girò a parlare alle altre donne in una lingua che Anna non comprendeva. Le tre laotiane parlarono a lungo. Sembrava che le due assistenti spingessero la padrona a fare qualcosa che lei evidentemente non voleva fare. Alla fine, la principessa buttò la lettera con rabbia e si coprì il viso con le mani, incapace a resistere alle loro argomentazioni, ma rifiutandosi di ascoltarle più a lungo. La più anziana delle donne raccolse la lettera con calma e ne lesse il contenuto diverse volte ad alta voce. Poi aprì una scatola per il betel, estrasse un calamaio, una piccola cannuccia e un lungo rotolo di carta gialla. Con calligrafia elaborata, incominciò a scrivere, ogni tanto cancellando le parole con il dito e ricominciando da capo. Impiegò molto tempo consultando la sua compagna di frequente. La principessa giaceva sul letto e guardava fuori della finestra come prima. Quando la lettera fu terminata, era così brutta e macchiata che Anna si chiese se sarebbero riusciti a decifrare il messaggio. La donna la piegò con cura e la infilò in una busta di seta blu che prese dalla scatola per il Betel, poi chiuse la busta e vi cucì all'esterno un pezzo di carta. Vergò l'indirizzo negli stessi caratteri della busta di velluto rosso e finalmente la porse ad Anna con un sorriso pieno di speranza. Soltanto allora la principessa si voltò e parlò di nuovo ad Anna. Ma Pia le ha promesso del denaro? Ma certo che no. Vuole lei del denaro? No, grazie, rispose Anna con la stessa alterigia della principessa. Ma mi deve dire a chi è indirizzata la lettera perché non so leggere questi caratteri. Farò il possibile perché arrivi a destinazione e per essere di aiuto in ogni altro modo, al meglio delle mie capacità. La principessa sembrò sopraffatta, si alzò dal letto di nuovo e abbracciò Anna con grande affetto, continuando a ringraziarla e a ripetere che l'avrebbe sempre benedetta nei suoi pensieri. Poi chiese ad Anna di consegnare la lettera nelle mani di Maepia o di suo fratello, il principe Otong, ma a nessun altro. E dove li trovo? La principessa sussurrò la risposta, evidentemente timorosa che una delle amazzoni potesse origliare. Sono nascosti in casa del governatore di Paklat. O almeno c'erano quando hanno mandato la lettera. Se sono andati via, lui saprà dove trovarli. Il problema successivo era come raggiungere Paklat. Era una città sul fiume a parecchi chilometri di distanza da Bangkok, non lontano da Pak Nam, dove il fiume Chao Phraya si versa nel golfo. Anna c'era già stata. Era un villaggio pittoresco di circa 7.000 abitanti e comunque c'era un inconveniente veramente serio. Nel villaggio c'era una sala aperta che da molto tempo era il punto di ritrovo di rozzi marinai delle navi inglesi e americane che commerciavano con Bangkok. Di conseguenza, secondo le regole dell'etichetta dell'élite di Bangkok, Paklat era un posto terribilmente inadatto da visitare per una signora sola. Era fuori discussione che Anna potesse andarci senza una scorta e non voleva attirare l'attenzione chiedendo a qualcuno di accompagnarla. Un commento casuale di qualche amico inglese poteva suscitare sospetti nelle menti diffidenti dei siamesi. Da molto tempo sapeva di essere strettamente sorvegliata, anche se non aveva mai capito quali tra le sue conoscenze erano le spie che riportavano al re ogni sua mossa. Per fortuna un francese di Bangkok, il signor Louis Malherbe, che era stato malato, era stato mandato dal dottor Campbell del consolato britannico a Paklat a cambiare aria. A Louis la signora Malherbe piaceva moltissimo. Sfortunatamente la signora in quel momento si trovava in Francia, il che rendeva difficile nella ristretta cerchia di Bangkok far visita al marito, ma Anna non fu in grado di trovare una scusa migliore. Il signor Lamache, il sergente istruttore, aveva in programma di compiere un viaggio sul fiume per andare a trovare il signor Malherbe, accompagnato dalla moglie. Anna chiese il permesso di unirsi a loro con la scusa che desiderava portare lui a fare una gita e mostrando un cortese interesse per il signor Malherbe, dal momento che lui è devoto alla signora, come sapete. Non era il massimo e Anna dovette sopportare infinite allusioni da parte dei suoi amici. Si divertirono a sue spese, accusandola di nutrire dei progetti sull'invalido e avvertendola tra sorrisetti che presto la moglie sarebbe tornata. Lei accettò le punzecchiature di buona grazia senza dare alcuna spiegazione. Alle 5 del mattino del giorno stabilito dal signor Lamache, con la lettera blu infilata in tasca, lei e Louis salirono sulla lancia con i loro ospiti e si misero in viaggio. Il percorso sul fiume fu molto piacevole. Arrivarono a Paklat in tempo per la colazione con il signor Malherbe. Anna mangiò in fretta, divertita dall'intrigo. Spiegò che aveva promesso di passare a trovare il padre di Lady Songclin, il governatore, e chiese il permesso di allontanarsi, che le venne accordato con facilità. Lasciò Louis con la signora Lamache e si affrettò a casa del governatore. Lui la accolse molto gentilmente e si informò della figlia e del nipote. Lei lo mise immediatamente al corrente del motivo della visita e scoprì che il principe e Maepi erano ancora nascosti da lui. L'accompagnò per lunghe sale e corridoi fuori dall'edificio principale in una vecchia torre con strette feritoie, coperta di muschio e annerita dagli anni, circondata da un profondo fossato di acque stagnanti. Dal tetto due rampe di scale scavate nel muro scendevano fino ai ponti levatoi in rovina. Uno era collegato al palazzo del governatore e l'altro, con un basso arco, si apriva su un canale che a sua volta dava accesso al fiume. Era facile vedere che la torre era stata costruita come un rifugio o che almeno ne aveva tutte le apparenze. Due barche erano ormeggiate nel fossato ai piedi delle scale, come se fossero preparate per un'emergenza. Il governatore lasciò Anna vicino al basso muro che cingeva il fossato e attraversò il ponte in rovina. Entrò nella torre da una porta ad arco, spessa e poderosa, rovinata come se avesse già assistito a più di un assedio. Pochi minuti dopo, Mai Pia uscì correndo. Oh, Mem Cha, Mem Cha, sono così felice di vederla. Oh, le voglio bene, le voglio tanto bene per essere venuta. Venga, deve venire a vedere il principe. Spinse Anna nella fortezza. Passando dall'ingresso entrarono in una stanza più piccola, con le pareti affrescate con scene del Ramayana, fiori, uccelli e animali giganteschi. Il coccodrillo era il più cospicuo. La stanza conteneva un letto imponente, un prodotto dell'artigianato di Bombay. Arrivava al soffitto e aveva una tenda a fiori. La luce incerta e i riflessi dell'acqua verde, verde scuro del fossato, scivolavano sulle pareti in onde iridescenti che accrescevano il senso di irrealtà che avvolgeva Anna. I fiori, gli uccelli e gli animali giganteschi sulle pareti, a uno per un attimo, venivano colti dalla luce fluttuante. Uno dei tre giovani uomini seduti nella stanza si alzò per salutare Anna. Lei lo riconobbe subito per la somiglianza con la principessa Sunatda. Benvenuta, amica coraggiosa, benvenuta, disse inchinandosi con grazia. Con un'eccitazione che non riusciva a controllare, chiese ad Anna se aveva visto sua sorella. Sì, l'ho vista pochi giorni fa. È stata trasferita al piano superiore in una cella con una finestra e le sue due cameriere sono con lei. Intanto Mai Pia, con un'ansia intensa sul viso, si era avvicinata per ascoltare. È stata malata, ma penso che adesso che ha avuto vostre notizie starà meglio e qualche volta le permettono di prendere un po' d'aria nei giardini del palazzo. Insistettero per avere da Anna ogni particolare della sua visita e quando mostrò la busta di seta azzurra ne furono indicibilmente felici. Mentre il principe leggeva la lettera, gli altri lo osservavano con apprensione. Quando ebbe terminato, la rilesse a voce alta. Mai Pia furono le sole parole che Anna capì, ma scorse due grosse lacrime cadere dagli occhi del principe sui fogli gialli macchiati, mentre la voce gli moriva in un sussurro e tornava a sedersi. Tutti rimasero in silenzio, ognuno assorto nei propri pensieri quasi per un'ora. Il principe aveva gli occhi rivolti al soffitto come in preghiera. Mai Pia gli strisciò al fianco e gli tenne gli occhi addosso. Lui aveva un viso debole, impetuoso, irresoluto e profondamente turbato. Formava un contrasto stridente con quello di Mai Pia che appariva retto da una determinazione incrollabile. Nella stanza silenziosa, increspature di luce verde fluttuavano sul muro mentre aveva luogo una strana e intensa discussione senza che venisse scambiata una parola. Il rango imponeva al principe la decisione finale, ma aveva paura, Mai Pia no. Si inginocchiò accanto a lui, cercando disperatamente il suo consenso per qualcosa che era già stato affrontato così tante volte che non occorreva più parlarne. L'intensità dello sguardo della schiava creava disagio nel principe. Anna sapeva quanto potere emanasse, ne aveva provato l'impatto su se stessa. Guardò Mai Pia con ammirazione. Che donna era! Era arrivato il momento per Anna di andare via. Si era aspettata di dover portare una risposta alla principessa, ma non era stato scritto niente. Il principe pregò Anna di accettare un compenso. Lei rifiutò. Le chiese di tornare a trovare sua sorella, se possibile, e di riferirle del suo viaggio a Paklat. Le mandò anche un messaggio di amore, parole di conforto e di speranza, ma nessuna lettera. Mai Pia accompagnò Anna alla residenza del governatore. La ringraziò di nuovo per aver consegnato la lettera rossa e per aver portato la risposta. Dica alla principessa di continuare ad avere coraggio, la supplicò. Non so esattamente cosa farò, ma qualcosa va fatto per salvarla, anche se dovessi morire, glielo dica. Oh, Mai Pia, obiettò Anna, fa attenzione. Non devi fare niente di affrettato. È meglio aspettare con pazienza un po' più a lungo e vedere cosa succede. Mai Pia scosse la testa. No. Farò qualcosa, prima o poi, in ogni caso, spero presto, glielo dica. Ma Mai Pia è in prigione. Anche se tu riuscissi a entrare nel palazzo, non potresti entrare in prigione. La schiava sorrise. 38. La principessa di Chiang Mai. Anna ebbe poche difficoltà a organizzare un altro colloquio con la principessa per mezzo di Lady Tiang. In apparenza, dal primo non era derivato alcun danno e se Irene era venuta a conoscenza per mezzo delle sue onnipresenti spie, non aveva sollevato obiezioni. La principessa era nella stessa cella, ma lo sguardo era più fermo e felice. «Ha visto mio fratello e mai Pia?» chiese eccitata non appena le amazzoni si furono ritirate. «Sì, e sono stati veramente lieti di avere sue notizie. Sono ancora Paklat e le mandano tutto il loro affetto». Poi riferì alla principessa e alle sue cameriere quanto era successo durante la visita. Con grande animazione commentarono nella loro lingua e la principessa pose ad Anna numerose domande. Quando Anna le disse della promessa di Mai Pia di cercare di salvarla, scosse la testa. No, è impossibile, mormorò, e per un attimo si ripiegò di nuovo su se stessa, ma riacquistò velocemente il controllo e si mise a raccontare ad Anna di Chiang Mai e della sua vita. Adesso è uno stato vassallo del Siam, ma un tempo i miei antenati erano sovrani di tutto il territorio tra la Birmania, la Cina e il Siam. A quel tempo Chiang Mai era un grande regno. È stato il re Phra Chao Othong Karmata, da cui mio fratello ha preso il nome, a fondare la città molti secoli fa. Ha costruito i grandi acquedotti che portano ancora l'acqua alla gente delle montagne. Mio fratello e io siamo gli unici figli del principe Sara Wong, il fratello dell'attuale re di Chiang Mai. Mia madre è morta alla mia nascita e mi ha allevato la madre di Mai Pia. Io e lei siamo sorelle di latte oltre che di spirito. Mio fratello ha 7 anni più di me. Gli piacciono tutti gli sport, ma per lui sono più importanti gloria, onore, indipendenza. Lo riempie di rabbia e di umiliazione ricordare che la nostra casata deve pagare il tributo al re del Siam, il cui nonno, dopo tutto, era solo un generale. Ogni 3 anni dobbiamo portare lungo il fiume, come pegno di fedeltà, alberi d'oro e d'argento. 3 anni fa mio zio, invece di venire personalmente, mandò mio fratello. Fu allora che fece amicizia con il secondo re del Siam. Quest'ultimo era da molto tempo in buoni rapporti con la nostra famiglia, ma prima di allora mio fratello non lo conosceva intimamente. Avevano entrambi la passione della caccia. Quando il secondo re venne in visita, partecipò con mio fratello a molte battute di caccia. Vorrei poter descrivere il mio primo incontro con il re, ma non ci sono parole. Ne sentivo parlare da anni e mi sono innamorata di lui nel momento in cui l'ho visto. Forse nella lingua degli angeli esistono parole che possono descriverlo, ma nelle lingue che conosco io non ce ne sono. Quando ci lasciò per tornare al suo palazzo di Saraburi, non ero più padrona della mia vita. Mio fratello capiva che cosa mi era accaduto e, senza che io lo sapessi, mandò Mai Pia a Bansita per lavorare nel palazzo del principe e scoprire se provava per me gli stessi sentimenti che io provavo per lui. È la migliore musicista del paese e sa suonare 10 diversi strumenti. Era da pochi giorni a palazzo quando le fu chiesto di suonare per il principe e lui fu entusiasta della sua bravura. Era malato e relegato nel palazzo e le canzoni di Mai Pia gli piacquero tanto che la tenne sempre accanto a sé, anche quando stava troppo male per qualsiasi altra cosa. Un giorno Mai Pia osò chiedere al principe se poteva cantare una canzone che lei stessa aveva scritto sulla sua musica preferita, Il Lamento del Cuore. Il principe fu sorpreso dalla sua audacia, come mi disse in seguito, perché chi era lei se non una semplice ragazza di campagna, almeno così credeva. Non poteva conoscere la composizione poetica, ma sorrise e le diede il permesso di cantare. E allora, per usare le sue parole, cantò la sua meravigliosa canzone su di te, mia amata, unendo con una tale intensità l'armonia melodiosa e la forza espressiva dei desideri del cuore che porto ancora con me il ricordo di quell'esperienza paradisiaca. Quando terminò, le tolsi il liuto di mano e le confessai il fardello del mio amore per te, Sunatda, con parole selvagge e imperfette. Mai Pia era partita da 3 mesi. E io ero inconsolabile. Poi un giorno ritornò portandomi lettere e regali del principe e appena un mese dopo partì per Bansita come una sposa felice. Quando eravamo quasi a destinazione, mio fratello andò avanti per annunciare il mio arrivo al principe e all'improvviso smise di parlare e scoppiò in un pianto appassionato. Anna rimase seduta, perfettamente immobile, timorosa che qualsiasi cosa avesse detto potesse interrompere il flusso della narrazione, e dopo un po' la principessa riprese a parlare. Così ci sposammo in privato. Dopo qualche mese di felicità, lui si ammalò seriamente. Voleva che tornassi da mio padre perché aveva paura che se fosse morto sarei caduta nelle mani di suo fratello, ma io non potevo lasciarlo. Quando lo portarono qui a Bangkok, venni con lui. Le sue ultime parole per me furono: "Addio, mia bella Sonatada. Per me sei stata la luce del sole al tramonto. La gloria del tuo amore ha fugato le nuvole fosche che hanno oscurato la mia vita e il ricordo del tuo viso brillerà davanti ai miei occhi stanchi fino alla fine." Poco tempo dopo la morte di mio marito, mi sono ritrovata prigioniera nel suo palazzo. Poi sono stata portata qui. Mi era stata preparata una residenza adatta a una regina. Il re ha ignorato il profondo amore che nutrivo per mio marito e il dolore che provavo per la sua perdita e mi ha offerto la sua regale mano. Ho rifiutato apertamente e con orgoglio la sua offerta crudele, e a causa di questo sono prigioniera qui, come può vedere, e vi rimarrò probabilmente finché vivo. Smise di parlare. Anna si mosse sulla scomoda panca, distendendo i muscoli intorpiditi della schiena. Una guardia entrò ad annunciare che era ora di chiudere le porte della prigione. Anna si alzò per andarsene. La principessa rimase seduta con le labbra serrate e le narici frementi, teneva la testa china ed era visibilmente scossa per il recente dolore, come se rivivesse l'amarezza della perdita e dell'umiliazione. Fece un cenno d'addio, ma non si girò.